E così non entravo più nello studiolo sempre chiuso ormai dello zio Adolphe, e dopo aver indugiato nei pressi del retrocucina, quando Françoise, comparendo sulla soglia, mi diceva «Dirò alla sguattera di servire il caffè e di portare su l'acqua calda, io devo correre da Madame Octave», mi decidevo a rientrare e salivo direttamente in camera mia a leggere. La sguattera era un ente morale, un'istituzione permanente alla quale alcuni invariabili attributi assicuravano una sorta di continuità e di identità attraverso il succedersi delle forme passeggere in cui via via si incarnava. Infatti non fu mai la stessa per 2 anni di seguito. L'anno in cui mangiammo tutti quegli asparagi, la sguattera, abitualmente incaricata di spennarli, come diceva Françoise, era una povera creatura malaticcia, in uno stato di gravidanza già molto avanzato, quando arrivammo a Pasqua, e ci stupivamo che Françoise le lasciasse fare tante commissioni, tante faccende, perché cominciava a portare con difficoltà davanti a sé la misteriosa cesta, ogni giorno più colma, di cui si indovinava la forma imponente sotto gli ampi grembiuli. Questi richiamavano le guarnacche che rivestono certe figure simboliche di Giotto, di cui Swann mi aveva regalato le fotografie. Era stato proprio lui a farcelo notare. E quando ci chiedeva notizie della sguattera, diceva «Come sta la carità di Giotto?» Lei stessa, d'altronde, povera ragazza, ingrassata per la gravidanza anche in viso, anche nelle guance che ricadevano diritte e quadrate, in effetti somigliava molto a quelle vergini forti e virili, piuttosto matronali, nelle quali all'arena sono personificate le virtù. E ora mi rendo conto che quelle virtù e quei vizi di Padova le somigliavano anche in un altro senso. Come l'immagine di lei era accresciuta dal simbolo aggiunto che portava sul ventre, senza avere l'aria di comprenderne il significato, senza che nulla nel suo viso ne traducesse la bellezza e lo spirito, alla stregua di un semplice e pesante fardello, allo stesso modo, con l'aria di non dubitarne, la poderosa massaia raffigurata all'arena sotto il nome di Caritas e la cui riproduzione era appesa alla parete del mio studio a Combré, incarna quella virtù. E senza che il minimo pensiero di carità abbia mai potuto essere espresso, si direbbe, dal suo volto energico e volgare. Grazie a una bella invenzione del pittore, calpesta i tesori della terra, ma con indifferenza, come se pigiasse dell'uva per estrarne il succo, o meglio, come se fosse salita in piedi su un mucchio di sacchi per essere più alta. E tende a Dio il suo cuore infiammato, o meglio, glielo passa, come una cuoca che passi un cavatappi attraverso la finestrella del suo seminterrato a qualcuno che gliel'abbia chiesto dal pian terreno. L'invidia, magari, una qualche espressione di invidia, avrebbe potuto averla, ma, sempre in quell'affresco, il simbolo occupa tanto spazio ed è rappresentato così realisticamente, il serpente che sibila le labbra dell'invidia è così grosso, le riempie così completamente la gran bocca spalancata, che i muscoli del volto sono tesi per poterlo contenere, come quelli di un bimbo che gonfi col fiato un palloncino. E l'attenzione dell'invidia, non diversamente dalla nostra, non ha certo molto tempo, tutta concentrata sull'azione delle labbra, da dedicare a pensieri invidiosi. Nonostante tutta l'ammirazione che Swann professava per quelle figure di Giotto, per molto tempo non provai alcun piacere a osservare nella nostra stanza di studio, dove le copie che mi aveva portato erano state appese, quella carità senza carità, quell'invidia simile piuttosto alla tavola di un libro di medicina che illustri la compressione della glottide o dell'ugola dovuta a un tumore della lingua o all'introduzione di uno strumento chirurgico. Una giustizia il cui volto grigiastro e meschinamente regolare era lo stesso che a Combré caratterizzava certe graziose borghesi bigotte e rinsecchite che vedevo alla messa, parecchie delle quali erano già arruolate da un pezzo nelle milizie di riserva dell'ingiustizia. Ma poi ho capito che la sorprendente originalità, la singolare bellezza di quegli affreschi, dipendevano dalla grande importanza che vi aveva il simbolo. E il fatto che fosse rappresentato non come simbolo, poiché il pensiero simbolico non era espresso, ma come reale, come effettivamente subito o materialmente maneggiato, dava al significato dell'opera un che di più letterale e preciso al suo insegnamento, un che di più concreto e sorprendente. Anche nella povera sguattera, l'attenzione non era forse continuamente ricondotta al suo ventre dal peso che lo tendeva? E similmente, il pensiero degli agonizzanti è molto spesso rivolto verso il lato effettivo, doloroso, oscuro, viscerale, verso quel rovescio della morte che è appunto il lato che essa loro presenta, che fa loro duramente sentire e che somiglia molto più a un fardello che li schiaccia, a una difficoltà di respiro, a un bisogno di bere, che non a ciò che noi chiamiamo idea della morte. Bisognava che quelle virtù e quei vizi di Padova avessero in sé una bella dose di realtà, se mi apparivano altrettanto vivi quanto la serva incinta, e se lei stessa a sua volta mi sembrava non molto meno allegorica. E forse quella non partecipazione, almeno apparente, dell'anima di un essere alla virtù che agisce per suo tramite, possiede anche, al di là del suo valore estetico, una realtà, se non psicologica, almeno come si dice, fisionomica. Quando più tardi, nel corso della vita, ho avuto occasione di incontrare, per esempio, in qualche convento, delle incarnazioni veramente sante della carità attiva, avevano generalmente un'aria allegra, positiva, indifferente e brusca, da chirurgo indaffarato, quel volto in cui non si legge alcuna commiserazione, alcuna commozione di fronte alla sofferenza umana, alcun timore di ferirla, e che appunto il volto senza dolcezza, il volto antipatico e sublime della vera bontà. Mentre la sguattera, facendo involontariamente brillare la superiorità di Françoise, come l'errore rende più clamoroso per contrasto il trionfo della verità, serviva il caffè, che secondo la mamma non era che acqua calda, e saliva poi a portare nelle nostre stanze l'acqua calda, che era appena tiepida, mi ero disteso sul letto, un libro in mano, nella mia stanza, che, tremando, proteggeva dal sole del pomeriggio la sua freschezza fragile e trasparente dietro le imposte semichiuse, dove un riflesso di luce era riuscito tuttavia a infiltrare le sue ali gialle e restava immobile tra il legno e il vetro, in un angolo, come una farfalla in riposo. C'era un chiarore appena sufficiente per leggere, e la sensazione dello splendore e della luce mi era data soltanto dai colpi battuti da Camus in Rue de la Cure, avvertito da Françoise che la zia non riposava e si poteva far rumore, contro certe casse polverose, ma che, riecheggiando nell'atmosfera sonora, caratteristica delle giornate calde, sembravano far volare lontano degli astri scarlatti. E anche dalle mosche che eseguivano davanti a me un loro piccolo concerto, una sorta di musica da camera dell'estate, una musica che non evoca l'estate come un motivo musicale umano che, udito per caso nella bella stagione, ce la ricordi in seguito, ma legata all'estate da un vincolo più necessario. Nata dalle belle giornate, rinascendo solo con quelle, racchiudendo un poco della loro essenza, ne risveglia non solo l'immagine nella nostra memoria, ma ne certifica il ritorno, la presenza effettiva, diffusa, immediatamente accessibile. Quell'oscura freschezza della mia stanza era, rispetto al pieno sole della strada, quello che è l'ombra per il raggio, cioè altrettanto luminosa, e offriva alla mia immaginazione lo spettacolo totale dell'estate, di cui i miei sensi, se fossi andato a fare una passeggiata, non avrebbero potuto gioire che a tratti. E s'accordava così bene al mio riposo che, grazie alle avventure raccontate dai miei libri e capaci di turbarlo, poteva sopportare l'urto e l'animazione di un torrente di attività, come la quiete di una mano immobile immersa nell'acqua corrente. Ma la nonna, anche se il tempo troppo caldo s'era guastato, s'era sopraggiunto un temporale o anche solo un acquazzone, veniva a supplicarmi di uscire. E, non volendo rinunciare alla mia lettura, andavo, se non altro, a continuarla in giardino, sotto l'ippocastano, in una piccola baracca di stuoia e tela, in fondo alla quale me ne stavo seduto, e mi credevo invisibile agli occhi delle persone che sarebbero potute venire a far visita ai miei. E il mio pensiero non era forse anch'esso una sorta di nido nel fondo del quale sentivo di essere sprofondato, magari per osservare quello che avveniva di fuori? Quando vedevo un oggetto esterno, la consapevolezza di vederlo restava fra me e l'oggetto. Lo circondava di un sottile contorno spirituale che mi impediva di toccarne direttamente la materia. Questa, in qualche modo, si volatilizzava prima che potessi entrarne in contatto, come un corpo incandescente che venga avvicinato a un oggetto bagnato non ne tocca mai l'umidità, perché si fa sempre precedere da una zona di evaporazione. In quella specie di iridescente schermo di stati differenti che la mia coscienza mentre leggevo dispiegava simultaneamente e che andavano dalle aspirazioni più profondamente nascoste dentro di me sino alla visione tutta esteriore dell'orizzonte che si offriva ai miei occhi dal fondo del giardino, la cosa più intimamente radicata in me, la leva in continuo movimento che governava tutto il resto, era la mia fede nella ricchezza filosofica, nella bellezza del libro che leggevo e il mio desiderio di appropriarmene qualunque fosse il libro. Infatti, anche se l'avevo comprato a Combray, dopo averlo visto in vetrina da Borange, una drogheria troppo distante da casa perché Françoise potesse andarci a fare la spesa come da Camille, ma meglio fornita come cartoleria e libreria, trattenuto con lo spago nel mosaico di opuscoli e fascicoli che rivestivano le due ante della porta del negozio più misteriosa e più disseminata di pensieri della porta di una cattedrale. L'avevo riconosciuto perché mi era stato segnalato come un'opera notevole dal professore o dal compagno che in quel momento mi sembrava detenere il segreto della verità e della bellezza, in parte presagite, in parte incomprensibili, la cui conoscenza era il fine vago ma costante del mio pensiero. A partire da questa convinzione centrale che durante la mia lettura eseguiva incessanti movimenti dall'interno all'esterno verso la scoperta della verità, venivano le emozioni suscitate in me dall'azione a cui prendevo parte. Infatti, quei pomeriggi di allora erano più densi di avvenimenti drammatici di quanto spesso non sia un'intera vita. Erano gli avvenimenti che si susseguivano nel libro che stavo leggendo. È vero che i personaggi che vi comparivano non erano reali, come diceva Françoise, ma tutti i sentimenti che la gioia o la sventura di un personaggio reale ci fanno provare non si producono in noi senza la mediazione di un'immagine di quella gioia o di quella sventura. La genialità del primo romanziere è consistita nel comprendere che nel meccanismo delle nostre emozioni l'immagine è l'unico elemento essenziale e che la semplificazione consistente nella pura e semplice soppressione dei personaggi reali avrebbe portato un decisivo perfezionamento. Un essere reale, per quanto profondamente possiamo simpatizzare con lui, è percepito in gran parte dai nostri sensi, cioè a dire resta opaco per noi, un peso morto che la nostra sensibilità non può sollevare. Se una disgrazia lo colpisce, potremmo esserne commossi solo in parte della nozione totale che abbiamo di lui, anzi, lui stesso potrà esserlo solo in una parte della nozione totale che ha di sé. La trovata del romanziere è stata di sostituire quelle parti impenetrabili all'anima con una uguale quantità di parti immateriali, tali cioè che la nostra anima possa assimilarle. Che importa allora se le azioni, le emozioni di quegli esseri di una nuova specie ci appaiono come vere, dal momento che le abbiamo fatte nostre, che è in noi che si producono e che condizionano, mentre voltiamo febbrilmente le pagine del libro, il ritmo del nostro respiro e l'intensità del nostro sguardo. E una volta che il romanziere ci abbia messi in quello stato, nel quale, come in tutti gli stati puramente interiori, ogni emozione viene decuplicata, e il suo libro provocherà in noi un turbamento simile a quello di un sogno, ma un sogno più nitido di quelli che facciamo dormendo e che nel ricordo durerà più a lungo, eccolo scatenare dentro di noi, per lo spazio di un'ora, tutte le gioie e tutte le sventure possibili di cui nella vita impiegheremmo anni a conoscerne qualcuna, e le più intense non ci sarebbero mai rivelate, perché la lentezza con cui si producono ce ne ostacola la percezione. Così nella vita il nostro cuore muta, ed è questo il dolore più grande. Ma noi questo dolore non lo conosciamo che durante la lettura, con l'immaginazione. Nella realtà il nostro cuore muta abbastanza lentamente, come si producono certi fenomeni della natura, in modo che pur potendo constatare successivamente ognuno dei suoi differenti stati, la sensazione stessa del mutamento ci sia risparmiata. Già meno interiore al mio corpo di quella vita dei personaggi, veniva poi, per metà proiettato davanti a me, il paesaggio nel quale si svolgeva l'azione e che esercitava sul mio pensiero un influsso ben maggiore dell'altro, quello che avevo sotto gli occhi quando li alzavo dal libro. Così, per due estati, nella calura del giardino di Combray, a causa del libro che leggevo allora, ho provato nostalgia di un paese di monti e di fiumi con tante segherie, e dove in fondo a un'acqua chiara pezzi di legno marcivano sotto ciuffi di crescione. Non lontano, grappoli di fiori violetti e rossastri s'arrampicavano lungo muri bassi. E poiché nel mio pensiero era sempre presente il sogno di una donna che mi avrebbe amato, quelle estati il mio sogno fu impregnato della freschezza di acque correnti, e chiunque fosse la donna che evocavo, grappoli di fiori violetti e rossastri sorgevano di colpo tutto intorno a lei come colori complementari. E non era solo perché un'immagine sognata sempre si imprime, si imbellisce e beneficia del riflesso dei colori esterni che casualmente l'avvolgono nella nostra fantasticheria. Per me, infatti, quei paesaggi dei libri che leggevo non si limitavano a essere dei paesaggi più vivamente rappresentati alla mia immaginazione di quelli che Combray offriva al mio sguardo, ma in qualche modo analoghi. Per la scelta che ne aveva fatta l'autore, per la fiducia con cui il mio pensiero accoglieva la sua parola come una rivelazione, mi apparivano, ed era un'impressione che non mi dava mai il paese in cui mi trovavo, e ancor meno il nostro giardino, prodotto senza prestigio dalla prevedibile fantasia del giardiniere che la nonna disprezzava, una parte vera e propria della natura stessa, degna d'essere studiata e approfondita. Se i miei mi avessero permesso, quando leggevo un libro, di andare a visitare la regione che vi era descritta, avrei creduto di compiere un passo inestimabile nella conquista della verità, perché se si ha la sensazione di essere sempre circondati dalla nostra anima, non è come se si trattasse di una prigione immobile, piuttosto si è come trascinati insieme a lei in un perpetuo slancio teso a superarla, a raggiungere l'esterno, con una sorta di scoramento nel sentire sempre intorno a noi quella sonorità identica che non è un eco da fuori, ma la risonanza di una vibrazione interna. Cerchiamo di ritrovare nelle cose, divenute per questo preziose, il riflesso che la nostra anima vi ha proiettato. Ne restiamo delusi nel constatare che sembrano sprovviste in natura del fascino che nella nostra mente derivava loro dalla vicinanza di certe idee. A volte convertiamo tutte le forze dell'anima in abilità, in splendore, per agire su esseri che sentiamo chiaramente situati fuori di noi e che non raggiungeremo mai. Così, se immaginavo sempre intorno alla donna che amavo i luoghi che allora desideravo di più, se avrei voluto che fosse lei a farmeli visitare, ad aprirmi l'accesso a un mondo sconosciuto, non era per una semplice e casuale associazione di idee, no, il fatto è che i miei sogni di viaggio e d'amore non erano che momenti che io oggi separo artificialmente, come se praticassi delle sezioni a diverse altezze in un getto d'acqua iridescente e apparentemente immobile, di un'unica, inarrestabile eruzione di tutte le forze della mia vita. Infine, continuando a seguire dall'interno all'esterno gli stati simultaneamente giustapposti della mia coscienza, e prima di giungere all'orizzonte reale che li avvolgeva, trovavo dei piaceri d'altro genere, quello di essere comodamente seduto, di sentire il buon odore dell'aria, di non essere disturbato da una visita, e quando suonavano le ore al campanile di Saint-Hilaire, di veder cadere un pezzo alla volta quel che del pomeriggio era già consumato, fino a sentire l'ultimo rintocco che mi permetteva di tirare le somme, e dopo il quale il lungo silenzio che seguiva sembrava segnare l'inizio nell'azzurro del cielo di tutta la parte che mi era ancora concessa per leggere fino alla buona cena che Françoise stava preparando e che mi avrebbe ristorato delle fatiche affrontate durante la lettura del libro al seguito del suo eroe. E ad ogni ora mi sembrava che solo pochi istanti fossero trascorsi da quando era suonata la precedente. La più recente veniva a inscriversi vicinissima all'altra nel cielo, e non potevo credere che 60 minuti fossero contenuti in quel piccolo arco azzurro compreso fra i loro due segnali d'oro. A volte, quell'ora prematura suonava addirittura due rintocchi più dell'ultima. Ce n'era dunque una che non avevo sentito, qualcosa che aveva avuto luogo non aveva avuto luogo per me. E l'interesse della lettura, magico come un sonno profondo, aveva ingannato le mie orecchie allucinate e cancellato la campana d'oro dalla superficie azzurrata del silenzio. Ah, bei pomeriggi domenicali sotto l'ipocastano del giardino di Combray, da me accuratamente svuotati dei mediocri incidenti della mia esistenza personale, che avevo sostituito con una vita di strane avventure e aspirazioni in un paese irrorato di acque vive. Voi mi evocate ancora quella vita quando penso a voi, e voi in effetti la contenete per averla a poco circoscritta e racchiusa. Mentre progredivo nella lettura e si spegneva il calore del giorno, nel cristallo successivo, lentamente cangiante e traversato dal fogliame, delle vostre ore silenziose, sonore, odorose e limpide. A volte, a distogliermi dalla lettura a metà pomeriggio, era la figlia del giardiniere, che correva come una pazza, rovesciava nella sua corsa un alberello d'arancio, si tagliava un dito, si rompeva un dente e gridava «Eccoli, eccoli!» per fare in modo che Françoise e io accorressimo e non perdessimo nulla dello spettacolo. Erano i giorni in cui i soldati, impegnati in manovre di guarnigione, attraversavano Combray percorrendo di solito Rue Saint-Hildegard, mentre i nostri domestici, seduti in fila sulle sedie messe fuori del cancello, guardavano il passeggio domenicale degli abitanti di Combray e si facevano vedere da loro, la figlia del giardiniere, attraverso uno spiraglio fra due case lontane dell'Avenue de la Gare, aveva scorto il luccichio degli elmetti. I domestici avevano ritirato precipitosamente le sedie, perché quando i corazzieri sfilavano lungo Rue Saint-Hildegard, la occupavano in tutta la sua larghezza, e i cavalli al galoppo rasentavano le case invadendo i marciapiedi, sommersi come argini che offrono un letto troppo angusto a un torrente in piena. «Ah, poveri ragazzi!» diceva Françoise, appena arrivata al cancello e già in lacrime. Povera gioventù che sarà falciata come un prato. Solo a pensarci mi sento tutta sconvolta, aggiungeva mettendosi una mano sul cuore, laddove aveva avvertito quello sconvolgimento. È bello, non è vero, Madame Françoise, vedere dei giovani che non tengono alla vita, diceva il giardiniere per provocarla, e non aveva parlato a vuoto. Non tengono alla vita? Ma a cosa bisogna tenere, se non alla vita? Il solo regalo che il buon Dio non ci fa mai due volte. Oh mio Dio, sì, è proprio vero che non ci tengono, li ho visti nel 70. Non hanno più paura della morte in quelle maledette guerre, sono come pazzi, né più né meno. E poi non valgono più della corda per impiccarli. Non sono uomini, sono leoni. Per Françoise, paragonare un uomo a un leone, che lei pronunciava leone, non era per niente lusinghiero. La Rue Saint-Hildegard disegnava una curva troppo stretta perché si potesse vederli venire di lontano, e solo attraverso quello spiraglio fra le due case dell'Avenue de la Gare si potevano scorgere sempre nuovi elmetti correre e luccicare al sole. Il giardiniere avrebbe voluto sapere se dovevano passarne ancora molti, e aveva sete perché il sole picchiava, Allora tutt'a un tratto sua figlia, slanciandosi come da una fortezza assediata, faceva una sortita, raggiungeva l'angolo della strada e dopo aver sfidato 100 volte la morte, veniva a portarci, insieme a una caraffa di liquirizia e limone, la notizia che erano almeno 1 migliaio ad arrivare senza sosta dalla parte di Tibersy e di Meseglise. Françoise e il giardiniere, riconciliati, discutevano sulla condotta da tenere in caso di guerra. «Vedete, Françoise», diceva il giardiniere, «sarebbe meglio la rivoluzione, perché quando scoppia ci vanno solo quelli che ci vogliono andare. Ah sì, questo almeno lo capisco, è più onesto». Il giardiniere era convinto che in caso di guerra avrebbero fermato tutti i treni. «Diamine, perché non si scappi», diceva Françoise, e il giardiniere, «son furbi», perché lui si rifiutava di credere che la guerra fosse qualcosa di diverso da una specie di brutto scherzo che lo Stato tentava di giocare al popolo, e che se ci fosse stato il modo di farlo, non ci sarebbe stata una sola persona che non se la sarebbe squagliata. Ma Françoise si affrettava a raggiungere la zia, io tornavo al mio libro, i domestici si installavano di nuovo davanti alla porta a guardare ricadere la polvere e l'emozione sollevate dai soldati. Molto tempo dopo che la calma era tornata, le strade di Combray nereggiavano ancora di un'insolita fiumana di passanti. E davanti a ogni casa, anche quelle dove non c'era quell'abitudine, i domestici o anche i padroni, seduti a guardare, guarnivano la soglia di un festone capriccioso e scuro, come quello delle alghe e delle conchiglie, di cui una forte marea lasci sulla riva il crespo e il ricamo dopo che si è ritirata.